La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Buon anno a tutti da Franco D'Assisi e dalla Rosa Purpurea. Siamo ormai alla fine barra inizio del vecchio barra nuovo anno e cinematograficamente parlando la Rosa Purpurea ancora una volta vi offre una puntata speciale, come è stato 7 giorni fa quando abbiamo parlato di tutti i film che erano in sala in quel momento, esattamente nel periodo natalizio. Adesso ci spostiamo, ovviamente spostiamo lo sguardo al 2011 e più che occuparci di bilanci racconteremo in questa puntata tutto quello che è di meglio, di più atteso, di più sospeso anche nei gusti del pubblico c'è da attendersi dal 2011 del cinema. Questo è un po' quindi il tema della nostra puntata. Avremo ospiti che ci aiuteranno in questo percorso, ma non ci dimentichiamo ovviamente la nostra vocazione all'attualità, perché un film, uno solo, ma un film importante, esce questo weekend in maniera abbastanza bizzarra. Ha evitato il Natale per raccogliere il Capodanno, anche queste sono scelte, vediamo quanto pagheranno. Stiamo parlando di Tron Legacy, perché è un film molto molto atteso, che 27 anni dopo il Tron originale del 1982, 27 anni la produzione, poi dopo in Italia è arrivato ancora un anno dopo, riporta queste atmosfere magiche dentro la rete. Ricorderete la storia di questo personaggio interpretato da Jeff Bridges che finiva appunto dentro la rete e lì lo ritroviamo, sebbene oltre un quarto di secolo dopo. Ma andiamo con ordine. Prima voglio dare un'occhiata alla classifica del Natale, perché il weekend natalizio era ovviamente il più appetito di tutto l'anno per quanto riguarda gli incassi al cinema. Ha vinto Natale in Sudafrica, che si è portato a 10 milioni e 900 mila euro di incasso globale dall'inizio della sua uscita. Ma al secondo posto La banda dei Babbi Natale di Aldo Giovanni e Giacomo, con Aldo Giovanni e Giacomo, di Paolo Genovese, che in settimana poi ha già effettuato il sorpasso sul film di Neri Parenti. Quindi davvero è stato l'anno, il Natale della rinascita di Aldo Giovanni e Giacomo al botteghino. Va bene in Italia, come forse non è andato nel resto del mondo, The Tourist con Johnny Depp e Angelina Jolie, quarto posto per Le cronache di Narnia, quinto per Megamind, quindi andiamo nei film per ragazzi, tiene un suo pubblico di nicchia, diciamo così, ma comunque in maniera onorevole La bellezza del somaro di Sergio Castellitto, che è al sesto posto, e poi via via tutti gli altri. Questa è la classifica del Natale, vedremo quanto verrà modificata durante il weekend di Capodanno, ma cominciamo a concentrarsi su Tron, dicevamo un film che nell'82 avevamo conosciuto così. Prepararsi al trasferimento nel moto labirinto. Trasferimento effettuato. Oh, wow. Qui Capo Blu alle moto blu. Sbattiamoli contro i muri di energia. Ricevuto Capo Blu. Ricevuto Capo Blu. Qui è Tron, Rem e Flynn. Dividiamoci e affrontiamoli singolarmente. Era proprio il 1982, erano i primi anni dell'avvento del personal computer, del PC, come lo chiamavamo tutti, no? 286, 386, insomma erano anni nei quali anche i videogame erano molto elementari, anche se oggi quelli della mia generazione li amano molto, i videogame di quegli anni. E allora la Disney tirò fuori questo film, Tron, che immaginava che un grande creatore di videogame, appunto questo signor Flynn, Mr. Flynn, un grande creativo un po' bizzarro, finisse dentro nella rete, finisse dentro nei meandri di quella che ancora non era internet, perché questo internet ancora non c'era, e pensate, sembrano passate davvero ere geologiche. La Disney fece anche un grosso sforzo di computer grafica per l'epoca. Se poi andate a vedere sulla rete, su YouTube, i pezzi, o se non avete visto, non ricordate il film originale, davvero oggi sembra preistoria, però fu uno sforzo importante di computer grafica, quello di immaginare un mondo all'interno della rete in cui questo creativo appunto era finito, intrappolato nel tentativo, anzi con l'incarico di creare un mondo perfetto. Oggi, 27 anni dopo, suo figlio Kevin Flynn tenta di trovare e di liberare il padre. Continuavo a sognare un mondo che pensavo non avrei mai visto. E poi un giorno accadde qualcosa. Qualcosa di straordinario. E che cos'era? Te lo dirò un'altra volta. Denunciata la scomparsa dell'amministratore delegato dell'Encom Kevin Flynn, visto per l'ultima volta nella sua abitazione con il figlio Sam. Questo è il flashback con cui si apre sostanzialmente questo Tron Legacy, il sequel a quasi 30 anni di distanza di Tron, che contempla lo stesso protagonista, Jeff Bridges. Qui è addirittura impegnato in due ruoli, quello appunto del signor Flynn e quello del cattivo di turno, appunto Tron, che è diventato in questi 27 anni di assenza dalla vita terrestre, è diventato il suo alter ego da una parte e anche il suo avversario all'interno della rete. Cosa succede? Che il giovane Kevin Flynn, alla ricerca del padre, rientra, ed è un momento molto suggestivo, nella vecchia sala giochi nella quale si svolgeva appunto parte del primo film, con lo stesso strumento del padre, si fa risucchiare a sua volta nella rete, e da lì comincia la ricerca di questo padre, ma comincia anche l'esplorazione di un mondo virtuale, sì, ma veramente dove tocchiamo con mano i passi avanti che ha fatto la computer grafica, popolato da creature straordinarie. Ti promisi che se avessi avuto qualche notizia su tuo padre, l'avresti saputa per primo. Mi hanno cercato ieri sera, dall'ufficio di tuo padre alla sala giochi. E allora? E allora, quel numero è inattivo da 20 anni. Due notti prima di sparire, tuo padre venne a casa mia. Mi annunciò cambiamenti radicali, scienza, medicina, religione. Non avrebbe mai abbandonato tutto, Sam. Non avrebbe mai abbandonato te. Alan, parli come se dovessi trovarlo lì a lavorare e mi dicesse: ciao, ho perso la nozione del tempo. Sarebbe fantastico. Da lì inseguimenti, battaglie, virtualismi tecnologici come dischi che stanno sulle spalle dei protagonisti come delle vere e proprie aureole elettroniche. Insomma, un film molto visionario, molto da vedere e molto da sentire, con alcuni momenti davvero molto molto divertenti, con alcuni personaggi molto azzeccati, per esempio come Michael Sheen, che è un po' il gestore di questo traffico di informazioni all'interno di questo mondo virtuale. È davvero un cameo, più di un cameo il suo, straordinario. Un film che tutto sommato lascia soddisfatto. Voglio ricordare il particolare che è in 3D, ma quasi quasi non mi veniva di dirlo perché mi sembra quasi naturale, insomma, oggi come oggi, ma che lascia molto, molto soddisfatto l'immaginario, appunto la parte visionaria di ognuno di noi e anche quella uditiva, perché davvero a livello di sonoro non vedo come possa sfuggirgli l'Oscar in questo senso. Andiamo a sentire un attimo una valutazione, una dichiarazione di Jeff Bridges alla prima londinese del film sul motivo di questi tanti anni, tantissimi anni passati dal Tron originale al sequel di quest'anno. Disney was wonderful in getting a great visionary in Joe. Girammo il primo Tron 27 anni fa. Da allora sono girati molti copioni, ma la Disney molto saggiamente scelse di non farne un seguito fino a che tutti gli elementi non si sono combinati. La storia, la tecnologia e, più importante, trovare la matita ideale per disegnare tutto questo. E questo era Jeff Bridges. Noi siamo già in collegamento con colei che ci farà da guida nell'analisi e nella scoperta dei film del 2011, Piera De Tassis, direttore di Chuck. Ciao Piera, grazie di essere qui in questa puntata di Capodanno. Buongiorno, buon anno a tutti, naturalmente. Eccomi qua, ecco, sono la vostra Virgilia. Virgilia, ti chiameremo Virgilia. Senti, in 30 secondi, perché poi dobbiamo sentire come vanno le cose sulle strade, poi dopo avremo tanto spazio per parlare dei film 2011, però ti chiedo anche una valutazione di questo del 2010, l'ultimo film del 2010, Tron Legacy, uno sforzo visivo davvero straordinario in termini di impatto proprio, poi dopo magari sulla trama, poi, sul racconto, si può dire quello che... Ho visto oggi anche velocemente, questi giorni, un po' di recensioni così, come... con quella solita serena perplessità nei confronti degli effetti speciali, eccetera. Io devo confessare A, che sono rimasta a bocca aperta, B, che mi sono molto divertita, e poi il terzo dato è quello più importante: io, dove c'è Jeff Bridges, ci sono sull'attenti, presente, via. Quindi, e io sono con te, assolutamente. Basta la voce, avete sentito quel pezzo? Straordinario. La voce in originale. Vi prego, mandiamo tutti i film in originale con i sottotitoli. Lo so, non è popolare come richiesta. Ma può diventarlo, sai, a perché... Babbo Natale, però io non ne posso più. Prima sentivo dei pezzi doppiati, io fino ho visto in originale, lo dico subito, quindi può darsi che... Mi rendo conto spesso che vedendo i film originali poi faccio delle recensioni che non sono neppure attinenti, perché davvero il doppiaggio cambia tanto, però la voce di Jeff Bridges è un bene dell'umanità, e con questo... La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte della nostra puntata di Capodanno, ad analizzare, a scoprire anche il 2011 del cinema. Che anno sarà? Che film ci aspettiamo? Da quali ci aspettiamo di più? Quali grandi autori troveremo nelle sale cinematografiche? Quali sono i temi, le linee guida di quest'annata? Ne abbiamo identificata una e la vorrei mettere subito all'inizio, prima di cominciare magari dai film italiani, dalle commedie italiane più attese, la nostra analisi. E quello che viene fuori, ne parliamo con Piera De Tassis, direttore di Ciak, che è al telefono in collegamento con noi, quello che viene fuori, Piera, è questo. Io adesso non voglio fare elenchi, non amo molto gli elenchi, però Robocop, Sin City 2, Cars 2, Conan, Kung Fu Panda 2, Una Notte da Leoni 2, Harry Potter 10, non lo so quanto siamo arrivati, Twilight, Breaking Dawn che è il quarto, Pirati dei Caraibi 4, Transformer 3, Mission Impossible 4, e mi sono fermato perché non abbiamo molto tempo. Allora, non si riesce più a vedere una sceneggiatura che non sia un supereroe tratta da un libro o una sceneggiatura che non sia un sequel o un remake. C'è davvero una crisi della creatività degli sceneggiatori prima ancora che degli sceneggiatori? Beh, io credo che ci sia una crisi di creatività dettata da una grandissima crisi generale, quindi la crisi che conosciamo e la crisi del cinema in particolare. Quindi questo tipo di crisi congiunte ha portato naturalmente a questo, alla serialità, alla ripetizione di modelli vincenti, che poi alla fine non risultano più vincenti, però, perché risulta una specie di come dirti, di implosione, no, agli occhi dello spettatore. Perché io, per esempio, a forza di vedere supereroi, confesso, già non sono proprio una fanatica, essendo in più donna, che come si sa non siamo proprio le più dotate per i supereroi, ma anche quelli che a un certo punto non li distingo più, e soprattutto arriviamo al succedaneo del succedaneo del succedaneo del supereroe. La stessa cosa è i sequel, inevitabilmente perdono forza, inevitabilmente scatta il confronto con il precedente, che è quasi sempre a sfavore, e soprattutto credo che ci sia una grossa mancanza di originalità. Voglio dire solo che però gli americani se ne stanno rendendo conto, perché di America stiamo parlando soprattutto in questo caso, e è uscito ieri un articolo sul New York Times, nei giorni scorsi, particolarmente importante, perché analizza proprio questo, il successo di Inception, una formula completamente originale, con un film particolarmente complesso, difficile, autoriale, ha messo in crisi un po' tutta l'industria di Hollywood, perché si stanno chiedendo, non sarà che forse dobbiamo tornare a delle cose più creative? Eh beh, speriamo che la risposta sia sì, perché Inception, tra i tanti meriti anche cinematografici che ha, ha anche questo, cioè quello di essere un prodotto originale che ha un po' appunto forse destabilizzato questa ripetitività e questi ritorni che poi possono essere anche ben realizzati, per la carità, però poi è vero che a un certo punto sembra sempre di andare al cinema a vedere le stesse cose da qualche anno a questa parte, insomma. Le stesse cose, oppure delle cose che non ci, di cui non ci parla, di cui non ti interessa più nulla, perché hai esaurito la curiosità, certo. Più che piuttosto che, guarda, io l'unico, per dire, per tornare sugli supereroi e fare un esempio concreto di film che arriverà, l'unico che davvero, devo dire, mi ha divertito in quelli che ho già visto è Kick-Ass, perché Kick-Ass è quantomeno una rivisitazione ironica, divertente, no, del mondo dei supereroi, dei nerds che diventano supereroi, quindi è ironico, insomma, contiene in sé un germe di critica, e poi è coloratissimo, divertente, cioè, molto ben diretto. Allora, Piera, però ne parliamo fra un po' di alcuni di questi titoli, anche ascoltando qualche suggestione sonora con i trailer originali, però io avevo messo in testa l'Italia, perché certo, fare un ponte anche su quello che è l'anno che sta finendo, l'anno che è finito, perché è stato un Natale nel quale la commedia italiana, al di là del cinepanettone, come abbiamo avuto modo di dire, ha abbastanza spopolato. sbagliato, insomma. Certo, comica, una commedia fortemente comica, ma comunque. E il 2011 si apre più o meno la stessa insegna. Settimana prossima avremo qui ospite Checco Zalone, e sarà il primo di una serie di film ancora fortemente comici, ai quali si aggiungeranno altre prestazioni importanti. Io voglio cominciare a far ascoltare ai nostri ascoltatori la clip di Qualunque Mente, che è il film forse di questo tipo più atteso, perché è un personaggio come Cetola Qualunque, insomma, ha bisogno e noi abbiamo bisogno anche del suo spirito e della sua verve. Sentiamo. Mi è stato chiesto, se vengo eletto, cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Una beata minchia! Con le parole io avrei finito, ora facciamo parlare i fatti, va? Facciamo parlare i fatti! Votate Cetola Qualunque, la politica che scende dalla gente! Votate Cetola Qualunque! Le elezioni sono come un pilo, non finiscono mai! Beh, già straordinario, già da questi pochi secondi, Cetola Qualunque, Qualunque Mente, Checco Zalone, che bella giornata, poi ci sono i vari Amici Miei, remake vari, ma insomma questa comicità di questo tipo, di questi, come possiamo definirli, battitori liberi, come appunto sono Checco Zalone e Antonio Albanese, può essere forse un po' una caratteristica ritrovata di un cinema di commedia italiana? Guarda, io devo dire che per la prima volta ho usato in copertina, in una copertina multipla, quella dedicata ai 100 film di Chuck, i frontman sono proprio Albanese, Ficcaro e Piccone vestiti da Beatles e Checco Zalone, e in secondo piano Clint Eastwood, i Coen, eccetera, perché credo che sia il momento della commedia italiana, il momento della commedia italiana in chiave anche anti-cinepanettone, parliamoci chiaro, perché Checco Zalone è una comicità assolutamente surreale, tra l'altro non da guru, no? Non schierata, non, quindi neanche ideologica, ma totalmente demenziale, e che però racconta, guarda, il film Che bella giornata è sicuramente uno, sarà un vincente al botteghino, sicuramente, perché proprio si ride dall'inizio alla fine e soprattutto unisce, come dire, il comico al buon film, insomma, alla buona sceneggiatura. E che dire di Qualunque Mente? Io ho avuto la fortuna di vederlo, ho già dato le mie 4 stelle, che potevano forse essere anche 5, e sicuramente quello che impressiona di più del film, intanto c'è un vero regista, Giulio Manfredonia, e tiene insieme e trasforma il personaggio, perché lì la scommessa era trasformare un monologo teatrale o comunque televisivo come quello di Cetola Qualunque in un film, quindi in un personaggio con una storia. È una storia assolutamente strepitosa dal punto di vista della comicità, come la conosciamo, assolutamente agghiacciante per la sua modernità, contemporaneità e aggancio con l'attualità, forse neanche voluto, perché lo stesso Albanese dice: io non voglio fare nomi e cognomi nella mia, voglio una comicità appunto che vola alto, però certo Cetola Qualunque è diventato di tale attualità nel nostro. E poi non ho visto, ecco, la seconda parte del film di Fausto Brizzi, quindi femmine contro maschi, però diciamo che ho visto alcune parti in cui sono in campo i sosia di Beatles, Ficcaro e Piccone, devo dire che loro due sicuramente danno una decisa nota in più al film, che anche qui è un sequel, non un sequel, ma addirittura un doppio film. Però insomma mi pare che si vada verso una comicità molto marcata anche da maschera italiana, si stiano, ecco, quello perché sono riuscita a mettere in copertina, mi pare che si stiano creando delle nuove maschere italiane, siamo più verso Totò, no? Che verso, certo, che verso il cinepanettone. Sì, assolutamente, assolutamente. C'è da contare che io aspetto comunque anche l'incontro Verdone De Niro, il manuale d'amore 3, insomma ci sono molte cose. Sì, no, ma poi abbiamo anche un blockbuster annunciato come Benvenuti al Nord, insomma, come dire, è sicuramente un'annata dove il cinema italiano di commedia panettone a prescindere riuscirà a portare a casa fette di pubblico sempre più imponenti. Questo è molto importante. Chissà, e chi ascolta La Rosa Purpurea sa che però con noi bisogna giocare tutte le settimane. E allora subito la prima traccia del DVD Game di oggi. Il sake è giapponese. Ma è così. Stavo recitando. Ah, certo. Allora, sono i primi 6 secondi, ne avrete altri durante la trasmissione. La Rosa Purpurea @radio24.it se avete indovinato di che film si tratta. E come sempre volete provare ad aggiudicarvi una copia del Blu-ray, ma una sola per chi ci ascolta, in ognuna delle nostre edizioni. 2 minuti prima di dare la linea alla regia, vogliamo fare un salto. Abbiamo parlato appunto del tema dei supereroi, l'abbiamo già affrontato. Io ricordo che abbiamo messo insieme animazione, ragazzi, 3D, insomma quel mondo lì per intenderci dell'intrattenimento cinematografico, e abbiamo da Harry Potter il 15 luglio che conclude la saga, molto atteso, a Twilight Breaking Dawn a novembre, ai Pirati dei Caraibi 4, a Transformer 3, a Thor e Capitan America per chi ama i supereroi, ai Tre Moschettieri, un grandissimo romanzo, ma poi anche i grandi personaggi dei fumetti che arrivano finalmente al cinema, Tintin, lo porta niente meno che Spielberg, i Puffi che diventano film, Sin City 2, insomma c'è davvero Cars 2, Kung Fu Panda 2, pensate, tantissimi sequel comunque di brand molto molto affermati. La Rosa Purpurea. Terza parte della Rosa Purpurea in questa cavalcata nei film che vedremo nel 2011 insieme alla sapientissima e pazientissima Piero De Tassis, direttore di Ciak, che è ancora in collegamento con noi. Io ti ringrazio, ma dobbiamo adesso affrontare, prima di lasciarti, un tema e un settore che ti sta, mi sta e penso stia al nostro pubblico molto a cuore, che in tutto questo che abbiamo detto fino adesso, sequel, remake, terze parti, quarte parti, 3D, animazione, entertainment, che va tutto bene, per carità, il cinema è tutto, non è solamente una parte, però insomma il risultato potrebbe essere: rimangono stritolati gli autori, rimangono stritolati quelli che inventano cinema e che l'hanno inventato e che possono inventarlo. Invece, tutto sommato, nel 2011 non è così. Partiamo da Martin Scorsese, perché chi è più autore di lui e chi più rappresenta quel connubio fra l'essere autore e l'essere cinema di successo, cinema di grande popolarità, di grande penetrazione. Io, andando a vedere sui vari siti internet, vedo che vengono attribuiti a Scorsese, alla data 2011, poi bisognerà vedere, ben 4 film addirittura. I Heard You Paint Houses, di Martin Scorsese con Robert De Niro, drammatico, 2011. Sinatra, di Martin Scorsese, biografico, 2011. The Rise of Theodore Roosevelt, Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, biografico, 2011. E poi il film forse più atteso, perché un grande maestro di oggi incontra il grande cinema dei maestri delle origini, Hugo Cabret, con Scorsese che racconta la magica storia di un bambino che incontra niente meno che Georges Méliès. Sarà l'anno di Scorsese, Piera De Tassis? No, sarà di Scorsese questo, di cui c'è già quest'ultimo di cui parli, di cui c'è già la data d'uscita il 9 dicembre, e che sta terminando di girare tra incredibili ritardi, perché lui ha fatto una lunga intervista sul Gavia, molto interessante, a proposito della tecnologia 3D, sta finendo di girare a Londra, e quindi questo sarà di... Quello che possiamo dire è che sarà di Scorsese sicuramente questo film, che io attendo come proprio, tra l'altro il libro, se volete prepararvi, è edito in Italia, quindi potete scorrerlo fra immagine e testo, e poi sarà sicuramente, quello di cui siamo sicuri è che di Martin Scorsese sarà qualcosa che potete vedere in televisione, su Sky, credo dal 10-11 gennaio, quindi prestissimo, ed è Boardwalk Empire, che è il sequel prodotto da Scorsese, meraviglioso, di cui addirittura il palo di prima 70 minuti sono proprio diretti da Scorsese, noi l'avevamo presentato a Roma, quindi finora le certezze su Scorsese sono queste. Qualcosa di più su questo racconto, come dicevi, il primo film in 3D di un grande autore, prende spunto tratto da un racconto illustrato, no? Sì, di un grande autore, credo che sia la svolta un po' artistica, no? Di questa tecnologia su cui c'è grande entusiasmo ma anche molta perplessità, diciamocelo, insomma, anche perché secondo me finché non tolgono di mezzo quei maledetti occhialini e quella perdita di luminosità sarà sempre... però credo che dalle dichiarazioni che lui ha rilasciato, che Scorsese ha rilasciato, stia in questo momento tentando, lui dice è uno scoperto ogni giorno, cioè io devo riscrivere il mio modo di fare cinema, il mio modo di fare carrellate, che non significa che lancerò, dice giustamente, giavellotti contro la cinepresa, perché sapete che il problema del 3D è quello di lanciare sempre un oggetto in primo piano in modo che si veda che è un 3D, no? Perché deve esserci quell'effetto sfondamento. Dice no, non lancerò giavellotti verso la cinepresa, però sicuramente mi costringe a ripensare tutta la geometria delle carrellate, dei movimenti di macchina, dei personaggi, eccetera. Ora, applicato a un regista che ogni volta che costruisce un'inquadratura è un grande architetto proprio di movimenti, messe in scena, movimenti di macchina da presa, di attore, eccetera, immaginate cosa possa dare questo ulteriore, no, ripensamento del cinema, come una rinascita, lui la chiama. Piera, parliamo invece degli altri autori, degli altri grandi autori attesi. Io ho qui a qualche titolo: Paul, The Seventh Son, Dark Shadows. Abbiamo questo The Beaver con Jodie Foster che ripesca Mel Gibson. Abbiamo The Girl with the Dragon Tattoo di David Fincher. Insomma, anche qui dicevamo, non è. Ma poi arrivano i Coen, che comunque sempre grandi autori sono, con la rivisitazione di True Grit, del Grint, questo per me è il film con il nostro grande Jeff Bridges, quindi per me questo, devo dire, è in cima ai miei pensieri come film di grande autore, assieme a Scorsese. Ci sono sicuramente i Coen del Grinta, Matt Damon e Jeff Bridges e Josh Brolin, quindi pensate anche solo il cast per chi è appassionato di cinema. Mi vengono in mente poi grandi autori italiani attesi, perché per esempio c'è il ritorno di Nanni Moretti con Abemus Papam, ecco, anche sul nostro versante. Assolutamente, assolutamente. E quindi siamo tutti... E poi c'è Sorrentino, Piera, c'è Sorrentino con questo film americano, io questo spenderei una parola, insomma, perché tra l'altro mi sembra che... Sto cercando di inseguire, guarda, è molto difficile. Non è facile. No, non è facile, però intanto perché vorrei consigliare delle cose che anche avendole già viste che sono più vicine a noi in uscita, sicuramente bisogna consigliare comunque, se ne pensi, di questo film, che io trovo molto bello, anche se molto classico, più classico dei suoi, c'è Eliah Hafter di Clint Eastwood, che sta per uscire proprio in questi giorni, mi pare che esca il 5 o il 6. No? Sì, è subito di prossima di uscita, gennaio. Infatti ne parleremo anche di questo settimana prossima. Un tema che oggi ossessiona moltissimo il cinema, perché è il tema dell'aldilà, comunque trattato dal punto di vista dell'umano, insomma, come solo Clint Eastwood può fare. E quindi mi vengono a dare dei suggerimenti, e se posso, prima di parlare di Sorrentino, che è più lontano e che non ho visto, però vi direi non perdete, io mi sono innamorata di questo film che è The King's Speech, molto nominato agli Oscar, anche questo vicino in uscita, credo che sia in italiano, Il discorso del re, con Colin Firth e Geoffrey Rush, che in una gara di bravura come se ne sono viste raramente, ecco, quindi volevo anche dare dei consigli. Assolutamente, annotiamo i titoli sulle agende. Sì, annotate, però This Must Be the Place, il film di... Esatto, e non l'abbiamo visto, ma mi sembra che da quelle due note che sono venute fuori sul plot, ci sono tutti gli ingredienti per piacere al di qua e al di là dell'oceano. No, è una cosa, e soprattutto avendo visto la prima foto, noi abbiamo pubblicato una prima foto di Sean Penn, truccatissimo, con un'enorme parrucca nera, insomma un po' Kate Richard nel ruolo, e un po' donna, un po' travestito, un po' Kate Richard, non si sa bene, quindi un'immagine abbastanza sorprendente. È la storia, come molti sanno, di una rockstar al tramonto che deve andare a New York per vedere il padre che sta per morire, non lo vede da molto, però in quell'occasione, incontrandolo, scopre appunto che il padre è stato seviziato praticamente da un SS durante la prigionia ad Auschwitz, e quindi comincia un viaggio verso la vendetta, diciamo, credo più o meno questo, certo non se ne sa di più. Ci sono Sean Penn, Frances McDormand, Luca Bigazzi è il direttore della fotografia, è il primo film in lingua inglese di Sorrentino, quindi potete immaginare sia l'attesa, si è visto il cast artistico e insomma credo che sarà uno dei film che farà più parlare il prossimo anno, questo sicuramente. Assolutamente. Perfetto, allora direi che insomma con tutti i limiti e le lacune possibili date dal fatto di non aver visto i film, noi abbiamo cercato di inquadrare almeno una decina di titoli di quelli da appuntarsi sul taccuino. Terrence Malick, noi Tree of Life, se mai uscirà per esempio. Se mai uscirà, mi sembra già una buona prerogativa. Poi se mi permettimi una cosa, c'è un piccolo film che ha sorpreso tutti a Roma vincendo, che è Kill Me Please, che esce adesso, un film in bianco e nero, sull'eutanasia è molto brutto, perché è una commedia molto nera, molto aspra sulla dolce morte, diciamo, ma anche molto sardonica, che esce proprio verso il 12 di gennaio e che sarebbe bello che insomma in molti andassero a vedere, perché davvero è quella che fu definita il film punk che ha vinto Roma, quindi insomma qua un po' di pubblicità. Vecchio cinema europeo, poi assolutamente. C'è Cignonero, ma insomma ce n'è. Devi parlare adesso di tutti i film. No, beh, ovvio, è totalmente impossibile. Comunque mi sembra che un sapore e le tendenze base le abbiamo date. Grazie Piera De Tassis, direttore di Ciak, amica di questa trasmissione. Ci risentiremo presto. Grazie ancora. Grazie. E a questo punto noi abbiamo esaurito la cavalcata, o quasi esaurito, perché abbiamo ancora un altro ospite da sentire. Prima però, seconda traccia del DVD Game. Vuole che oggi faccia una presentazione agli studenti del suo corso base di fisica. Che fai? Insegni le divisioni agli studenti di lettere? Lo so, è Mission Impossible. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, c'è un'altra possibilità fra poco. E nel frattempo io saluto al nostro, in linea con noi, al nostro telefono, potremmo dire, un altro amico, Antonio Ottieri, un altro direttore. Qui siamo pieni di direttori oggi. Ciao Antonio. Ciao Franco. Ciao. Buon anno anche a te. Allora, hai sentito la parte finale di questa nostra analisi con Piera, sì, di tutto quello che, di tutto, insomma, di parte, di quello che di notevole, forse sicuramente ci saremmo dimenticati delle cose, arriverà nelle sale italiane il prossimo anno, anzi quest'anno, nel 2011. A te chiedo, proprio anche visto il tuo taglio più tecnico e più legato anche all'aspetto dell'industria cinematografica, una valutazione su che cosa potrà andare il botteghino. Insomma, ecco, abbiamo detto con Piera, tanti sequel, tanti remake, tanti supereroi, tanto 3D, ingredienti che eppure il film dell'anno, se vogliamo dire, forse non come incassi assoluti, ma insomma come immaginario, è stato Inception, che è un film originale che non è in 3D, eccetera eccetera, che sembra quindi, come dire, sconfessare questa massa. Chi ha ragione? Che 2011 sarà? Basteranno ancora gli occhialini per garantire incassi? Come l'avete immaginato voi nelle vostre previsioni di guru della parte economica del cinema? Grazie per il guru. Sicuramente il 3D ha avuto, sappiamo, l'aspetto trascinante che ha avuto in questi ultimi due anni. Secondo me la cosa interessante del 3D è stato l'effetto novità, che ha trascinato all'inizio una serie di film, anche forse superiori alla qualità dei titoli stessi, e fino ad arrivare all'apoteosi con alcuni film assolutamente forti da tutti i punti di vista, soprattutto Avatar, ma non solo Avatar. Penso anche all'Era Glaciale 3, che per esempio per tutto il film di animazione è stato quello che ha raccolto maggiormente l'aspetto dell'aggiunta del 3D, cosa che adesso inizia a vedersi, come dire, un po' in calo, un po' perché l'aspetto di novità si sta inevitabilmente annacquando, il pubblico inizia, come dire, a distinguere fra film con un forte apporto in 3D e film tradotti all'ultimo momento dal formato tradizionale, quindi sicuramente bisognerà stare molto attenti. Abbiamo valutato tutti con grande favore il fatto che Harry Potter, la prima parte e l'ultimo capitolo di Harry Potter, sia stato all'ultimo momento stoppato nel formato 3D perché non convinceva. Ci sono film importanti che, se presentati in 3D, devono essere assolutamente, come dire, perfetti e ineccepibili. Senti, come tendenze invece il botteghino del 2011 cosa ci dirà? Con Piera si faceva il pronostico, sarà l'anno della commedia italiana, secondo voi? Io penso che sicuramente il caso di Benvenuti al Sud, alla fine dell'anno prima l'esordio di Zalone, che adesso abbiamo uscito il secondo film, ci fa capire che anche in questo caso, anche nella commedia, sono gli aspetti di novità a diventare, come penso nella storia del cinema peraltro, a diventare i fenomeni, i grandi botti al botteghino. Quindi io ho l'impressione che appunto ci sono remake, sequel come sempre, però poi c'è un momento in cui certe ripetizioni, e questo non riguarda soltanto i sequel ma penso anche a certe saghe, a certi filoni, a certi personaggi anche comici che all'improvviso finiscono. Una volta ci fu il famoso flop di un fantozzi dopo anni e anni di grandi successi. Benvenuti al Sud, di cui sicuramente il sequel Benvenuti al Nord sarà un altro grande successo perché è ancora in effetto novità, e Zalone, che secondo me avrà un grande successo con Che bella giornata, dimostrano che c'è il pubblico ha fame di facce nuove, oppure di facce come Verdone l'anno scorso con Io, Loro e Lara, che si reinventano con storie diverse da quelle degli anni precedenti. Grazie Antonio Auteri, buon anno anche a te. Grazie Franco, a tutti voi. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea di Capodanno, ancora insieme dopo aver così cercato di scoprire un po' cosa sarà, abbiamo fatto un po' i cartomanti in questa settimana, cosa sarà il 2011 del cinema, almeno cosa potrebbe essere, poi solo vedendo i film lo si può capire. Noi invece andiamo in questa ultima parte a raccontare un po' quello che arriva, che sta arrivando in sala, in televisione, insomma il cinema da recuperare, vedere, rivedere, registrare sui nostri piccoli schermi. Come sempre noi cominciamo con gli amici della redazione di Film TV che ogni settimana vanno a spulciare un po' nelle pieghe dei palinsesti in chiaro e gratuiti, perché questa come sempre è la nostra prerogativa, e ormai con il digitale terrestre che in quasi tutta Italia è una realtà, i canali si sono moltiplicati, anche i canali del bouquet gratuito, e quindi la possibilità di vedere grandi film in televisione senza interruzioni pubblicitarie molto spesso, insomma in questo sicuramente il digitale terrestre ha portato un miglioramento, perché ha aumentato i canali visibili e anche la qualità dei film che vengono visti, e ha anche tolto spesso le pubblicità che l'interrompevano in maniera sempre molto fastidiosa. Quindi bene, grazie anche di questo, ma insomma come sempre le scelte e le spigolature noi le chiediamo agli amici di Film TV, del settimanale di cinema e di televisione, di cinema in televisione Film TV. È in collegamento con noi Sara Sagrati. Ciao Sara. Ciao Franco, buon anno a tutti. Buon anno anche a voi, a tutta la redazione, ai vostri lettori. Allora, dicevamo, abbiamo voluto scegliere per questa segnalazione, per questa settimana, una specie di piccolo melting pot di cartoon, perché è una settimana questa di Capodanno, insomma dell'Epifania, eccetera, questa che chiude le vacanze di Natale, dove ci sarà veramente da recuperare grandissimi film d'animazione in televisione. Hai perfettamente ragione, partiamo infatti domenica sera con una delle più grandi prime TV dell'anno, che la inaugura e siamo certi sarà una delle più importanti, che è Biancaneve e Sette Nani in versione HD per la prima volta in TV, ed è il primo capolavoro Disney, il primo film interamente animato della storia, con la cattiva, la strega Grimilde, che tutti ricordiamo, la regina, e la dolcissima Biancaneve con i Sette Nani, che è diventato un grande classico. Invece poi passiamo il giorno della Befana a un tris sempre Disney molto importante. Si inizia la mattina presto la sveglia alle 9:10 su Rai 3 con Hercules, la mitologia greca rivista da Disney, con l'eroe sulla terra e le sue 12 fatiche. Alle 10:35 subito dopo, sempre su Rai 3, il Gobbo di Notre Dame. Cambia completamente l'immaginario, anche se si rimane sempre in Factory Disney, con il Gobbo Quasimodo e la sua Esmeralda, e poi si finisce alla grande in serata alle 19:10 su Rai 2 con Dumbo, i 60 minuti più dolci della storia del cinema forse, e se ne avete viste tante da raccontare, sicuramente non potete non aver visto Gli elefanti volar. Assolutamente, bella la citazione della nostra Sara Sagrati, straordinaria. Devo dire Hercules, ecco, io voglio sottolinearlo, magari è un film che è passato in un momento di transizione della Disney, perché era un momento in cui si passava da un'animazione tradizionale all'applicazione applicazione della computer grafica in animazione, ma ancora prima poi del salto tridimensionale della Pixar. Però Hercules è uno dei più bei musical, a mio modo di vedere, che siano stati realizzati al cinema. A livello musicale è una cosa strepitosa, veramente. Una colonna sonora che mescola blues, gospel, rock e addirittura disco music. Assolutamente, assolutamente eccezionale. Quindi da non perdere, tra l'altro nella traduzione italiana, con il vecchio satiro Filottete, allenatore di Ercole, che ha la voce di Giancarlo Magalli. Quindi c'è di tutto. Grazie, tutto Sara. Valutato Giancarlo Magalli. Assolutamente. No, beh, tra l'altro molto bravo, io lo dicevo perché molto molto bravo in quella cosa. Sara, grazie, ancora un buon 2011 a tutti quelli che amano il cinema, come voi di Film TV, come noi della Rosa Purpura, come i nostri pubblici, come chi va al cinema tutte le settimane. Un saluto. Un saluto grandissimo, buon anno. E allora, esaurita la pagina dedicata a cosa vedere in TV nella prossima settimana, noi abbiamo la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Sei quel ragazzino, quello del... come si chiamava quel posto? Arcana... Arcana Cabana? Sì. Sei andato in un'altra scuola? Sì, esatto. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Metteteci sempre dentro anche il vostro indirizzo, perché il più veloce e bravo di ognuna delle nostre puntate, dei nostri passaggi, avrà la possibilità di vincere il DVD, anzi il Blu-ray, di questo film che vi abbiamo proposto. E facendo un salto indietro, la settimana scorsa vi avevamo fatto ascoltare questa traccia. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. E allora, era La vita è bella di Roberto Benigni, che arriva in Blu-ray, e questa è la notizia, e questo è il presupposto, e quindi vi abbiamo fatto giocare con questo film che ha fatto onore a tutta l'Italia. I vincitori sono Sergio Felicini di Riccione e Giulia Uccelli di Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Sono loro che riceveranno il Blu-ray della Vita è Bella a casa. E noi, per raccontarci meglio questa prima volta in Blu-ray del film di Roberto Benigni, abbiamo in linea il nostro Claudio Pofi. Buon anno anche a te, Claudio. Ciao Franco, buon anno ai nostri amici in ascolto. Questa perla del cinema italiano da Cecchi Gore, da poco disponibile in alta definizione, come dicevi tu, nella, tra l'altro, versione originale italiana, ovvero non quella rimontata per il mercato internazionale, per intenderci quella che apriva con la sequenza della nebbia. Le immagini sono sicuramente di buona qualità, non mancano momenti in cui la grana si fa sentire, la pellicola ha lieve instabilità, ma comunque il risultato visivo è superiore al DVD. La traccia di TS ad alta risoluzione in italiano ha alcuni elementi intubati e digitali. Tra gli extra segnalo le immagini dei premi vinti in giro per il mondo del film e soprattutto un capitolo in cui Benigni in esclusiva ricorda la produzione del film. E questo per quello che concerne quindi il game della scorsa settimana. Ora, chi ci conosce sa che siamo rigorosamente cinefili, e quindi alla Rosa Purpurea si parla solamente di cinema e di film prodotti per il cinema, ma qualche digressione ce la siamo concessa anche in questi nostri 11 anni, perché effettivamente a volte, e soprattutto negli ultimi tempi, ciò che viene prodotto per la televisione ha un tenore cinematografico, un tasso di cinefilia più alto di molti film che vengono prodotti per il grande schermo. È il caso della uscita in un video che vogliamo proporvi, di cui vogliamo parlarvi: 7 anni di lavorazione, 200 milioni di dollari di budget, 138 attori utilizzati, 26.000 comparse. Questi sono i numeri di The Pacific, la più grande miniserie televisiva mai realizzata, prodotta da due signori che il cinema lo conoscono, come Steven Spielberg e Tom Hanks. Sentiamo. L'importante promessa fatta a Dio e al paese ci ha condotto in un paradiso tropicale, un posto a noi ignoto che Jack London definì le terribili isole Salomone. È un giardino dell'Eden che comunica nello stesso tempo bellezza e terrore. Ma ciò che mi spaventa è l'uomo. Abbiamo incontrato il nemico e non ho imparato niente su di lui. Quello che ho imparato è qualcosa in più su me stesso. Ci sono atrocità che gli uomini compiono uno contro l'altro, che ti lasciano l'animo lacerato. Dopo Band of Brothers, Tom Hanks e Spielberg tornano di nuovo insieme da produttori per raccontare il dramma della Seconda Guerra Mondiale nel Teatro d'Operazioni del Pacifico. Il tutto visto e raccontato principalmente attraverso gli occhi di tre giovani marine. Da Guadalcanal attraverso Pelelio Hills e poi Iwo Jima e ancora Okinawa, raccontando la guerra in tutta la sua ferocia, in un'epica tutta a stelle e strisce. 200 milioni di dollari australiani per 10 puntate da un'ora l'una, da Warner Home Video, disponibile il cofanetto DVD, ma soprattutto quello Blu-ray di altissima qualità video, che contiene oltre all'audio italiano in DTS, quello DTS ad alta risoluzione in inglese e tedesco, e sono tutte pregevoli tracce. Tra gli extra segnalo la notevole visione immagine nell'immagine degli episodi, con approfondimenti storici e di lavorazione, e soprattutto una approfondita guida interattiva per scoprire la storia dietro al racconto. E a questo punto l'ultima segnalazione spetta a un grande maestro del cinema italiano, che con il suo ultimo film, che si intitola non a caso Giallo, ha avuto una distribuzione in home video. Chi vuol vedere l'ultimo film di Dario Argento deve andare in videoteca e recuperare questo film, che appunto si chiama e si intitola semplicemente Giallo, e che ha un grande protagonista come Adrien Brody. Questo corpo non è mio. Io non sono quella in questo corpo. Sono vita senza confini. A Torino il detective Enzo Wolf indaga su un serial killer che rapisce modelle per poi ucciderle barbaramente. Il poliziotto, da tempo in difficoltà nello scovare l'omicida, si troverà forzatamente aiutato da Linda, sorella maggiore di una modella scomparsa. Per i due sarà una corsa contro il tempo nel disperato tentativo di strappare la giovane al suo carnefice. Dopo il dignitoso horror La terza madre, Argento riprova le vie del thriller venato di horror, che vede tra i protagonisti Adrien Brody, qui anche nelle vesti di coproduttore. Nonostante i 14 milioni di dollari di budget, il risultato visivo è piuttosto modesto, con un taglio troppo televisivo. Una travagliata produzione che giunge direttamente in un video dopo essere passata ad alcuni festival. Il Blu-ray di Dall'Angelo Pictures è di ottima qualità, palesa al tempo stesso i limiti dell'originale cinematografia per un insieme di sequenze notturne di una Torino poco riconoscibile. Formato dell'immagine prossimo ma non identico a quello originale, doppia traccia audio in italiano ad alta risoluzione, Dolby Digital in inglese. Come extra ci sono solo i trailer. Insomma, non è il miglior Dario Argento, ma è pur sempre Dario Argento. Tra l'altro, dicevamo, coppia di attori importanti, Adrien Brody e Emmanuel Segné. Il film ha avuto parecchie vicissitudini, ma vale la pena dargli un'occhiata. Grazie ancora, buon anno a Claudio Poffi. A presto e auguri a tutti. E noi chiudiamo qui la puntata di inizio barra fine anno di questo 2011 della Rosa Purpurea. Dalla prossima settimana torneremo con il nostro format originale, perché torneranno nelle sale le uscite, magari non ancora del tutto copiose, ma insomma già più abbondanti di questa settimana. Sarà la settimana appunto di Checco Zalone, che sarà nostro ospite qui alla Rosa Purpurea, sarà la settimana di Clint Eastwood, insomma ci sarà di che parlare per quanto riguarda le novità. Per il momento grazie, appuntamento come sempre alle 18 del sabato e alle 15 della domenica qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi.